Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, bentornati all'asilo dopo Natale. Un asilo un po' deserto, a dire il vero. Ma sì, ma Drago, infatti, perché siamo qui invece di essere a Gstaad a fare delle grandi scese sugli sci con gli occhiali da ski? Te lo chiedi perché? Perché abbiamo un contratto. E sai che di questi tempi poter dire abbiamo un contratto è un lusso. Sì, vabbè, ma cosa c'entra con Natale, con le vacanze che non facciamo? Flessibilità. C'entra? Siamo flessibili, Kappa. C'è da lavorare il 27 dicembre. Lavora il 27 dicembre, c'è da lavorare il 28 dicembre, si lavora il 28 dicembre, c'è da lavorare il primo gennaio, non fosse stato un sabato, il primo gennaio saremmo stati qui. Meno male che sabato, se no il primo gennaio ci sarebbero state al massimo le nostre carcasse doloranti e poco di più, quindi meglio così. Dai. Sì, perché noi i capodanni li facciamo così devastanti da essere poi delle carcasse, ma smettila, Kappa, chi ci crede? Io a San Silvestro vado a letto a dormire minimo alle 7, del mattino, e il primo dell'anno lo passo a letto al buio con una pezza umida sulla fronte senza che nessuno mi debba disturbare perché c'è il hangover, telefonate, no? Niente, in quelle condizioni qui non mi farebbero nemmeno entrare, chiamano la polizia direttamente. No, per Capodanno tu hai proprio delle cattive intenzioni. Male, cattive intenzioni, voglio ubriacarti, devastarti, stare con la pezza umida tutto il giorno al buio. Male, perché questo è il periodo delle buone intenzioni, anzi delle ottime intenzioni, non delle cattive intenzioni. Cosa devo fare? Leggiti i settimanali, no? Sono pieni di bilanci, di previsioni, di elenchi, di desideri per l'anno nuovo. E quindi adeguati, comincia a pensare anche tu a migliorare in vista del 2011. Stila una lista dei buoni propositi. Vabbè. In fondo le liste sono la grande novità del momento, no, in Italia. Sì. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è smetterla di interrompere. Sarà che guardo troppi Fight Club politici in TV, Drago, ma adesso sono molto sensibile alle interruzioni. Interruzioni? Sì, quando ti vengono addosso con la voce. TV succede sempre, uno inizia un ragionamento e al primo fiato che tira l'avversario lo interrompe e va tutto in vacca. E quindi tu cosa vuoi fare? Dare il buon esempio, smetterla di interrompere? Certo, è una questione d'educazione. Sì, giusto, però credo oltre a questa... che sia importante per la qualità stessa dei Fight Club televisivi. Cioè, essere sinceri, a me piace quando litigano. Ma, come? Ma sì, dai, è bello. Il succo dei programmi come Anni Zero o L'ultima parola è quello lì. Ma cosa? Ma la tecnica dell'interruzione sistematica ormai inizia a darmi un po' fastidio. Uno come il bambino Ghedini lo farei venire di nuovo all'asilo a imparare la BC delle buone maniere. Forse quando all'asilo hanno insegnato i fondamentali Ghedini era a casa con la febbre. Sì, però allora adesso si fa prendi tardi, il bambino Bocchino. Basta, mi interrompi. Parlando di non interrompere. A parte che dipende dai punti di vista, magari sei tu che interrompi. Io non ho interrotto finché tu parlavi, sei tu che mi interrompi. Adesso il vecchio trucco del io non ho interrotto e quindi ho diritto a non essere interrotto. Ma se sei tu che mi interrompi, io stavo facendo il mio ragionamento e tu sei lì a punzecchiare. Ma tu arrivavi a un punto, io non è che punzecchio. No, arrivavi io appunto, a un punto perché puntualizzavo. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Chiedo asilo! E ora, bambini? Bambino Alberto, allora Natale è passato, no? Purtroppo sì. Eh sì, però c'è stato il cosa pranzo, la riunione di famiglia. Natale è stato bello. È stato bello, ma è già finito. Sono contento ancora adesso. Allora, bambino Alberto, hai mangiato tanto in questi giorni, come tutti, insomma, ti sei rimpinguito. Beh, insomma, mica tanto. Ah, no. Ma come? No, io sono rimasto qui all'asilo, In messa non c'era nessuno. Allora mi sono arrangiato da solo. Ah, poverino, come un cane randagio che deve andare a cercare il cibo nella spazzatura. Beh, per forza. Per forza. Beh, a casa mia non c'è posto perché c'è il dissidente americano. Ah, già, il dissidente americano. Quindi, pomeriggio qui all'asilo e sera dalla zia. Ah, ma quindi il pranzo di Natale? Il pranzo di Natale è qui da solo in messa ad aspettare che arrivasse qualcuno con qualcosa da mangiare, ma no? Ma come? Che tristezza! Non c'è nessuno, ho aspettato un po', ma non è venuto nessuno. Ma che triste Natale, bambino Alberto! Ma invece la notte della vigilia sei andato dalla zia. Vabbè, sì, sì. Però tutti a letto alle 8. Ma come tutti a letto alle 8? Alla vigilia? Sì, ma a casa di mia zia... L'atmosfera è triste. Ma perché? È tutto triste. Per via del mio cuginetto Luca. Lui è sulla sedia a rotelle. Vabbè, però a Natale, Infatti, insomma, gli avranno dato i regali sotto l'albero, anche Luca. Sì, per quello sì. alle 7 dopo cena, no? Come alle 7 dopo cena? Sì, e no, da mia zia si mangia alle 6:30, eh. Vabbè, mezz'ora e via. La minestrina col formaggino. Magari. Come magari? La minestrina c'era. Ma senza formaggino. Magra, vabbè, giusto. Quindi alle 7 dopo cena è arrivato mio zio Remo, vestito da Babbo Natale. Ma non era tuo zio Remo vestito da Babbo Natale, era proprio Babbo Natale in persona, dalla Finlandia. Guarda come ammicca, Drago. Natale non esiste. Come non esiste? Cioè, o Babbo Natale non esiste, oppure Babbo Natale e mio zio Remo. Ma come? E i casi sono due. Io propendo per il primo caso. Non fosse altro perché immaginare mio zio che guida le renne, insomma. Sì, ma perché pensi che il Babbo Natale che hai visto a casa di tua zia alle 7 fosse zio Remo? Ma perché si riconosceva, no? Ma come? Era pieno di nei. Ma come pieno di nei? Ma sì, devastato dai nei. Ma chi? Babbo Natale? Sì, come lo zio Remo. Lo zio Remo ha nei dappertutto, In faccia, in testa. In testa. Tutti gli anfratti del corpo. Cioè... c'hai nei, quindi anche con la barba bianca finta. E si vedevano lo stesso, spuntavano fuori sti nei. C'è uno spettacolo orripilante, Però io ho sgamato lo stesso. Ehi, tu sei pieno di nei. Sei zio Remo, non sono mica scemo. Babbo Natale non sei. E vabbè, e quindi tuo zio coinei, o meglio Babbo Natale coinei come tuo zio, ha portato i doni, e che doni ti ha portato? No, ma è niente proprio. Ma come? Ma sei rimasto lì da solo senza doni? No, perché c'è stato un disguido, mi hanno detto. Un disguido? Cioè? Eh sì, perché la mia lettera a Babbo Natale l'ho scritta da casa, no? Sì. E quindi Babbo Natale se n'è andato a casa mia. Ah già, certo. Non da mia zia. No, dovevi dirglielo però. A casa tu. Tua, certo, è andato a casa tua. Sì, però e così Babbo Natale ha trovato il dissidente americano al posto mio. Magari con tua madre. Ma no, ma cappa, al dai. Al posto suo che fa il Natale sotto l'albero. Certo, il bacino della buonanotte. E poi il mattino dopo, sì, alle 7, mi hanno svegliato in tutta fretta. Dai, sveglia, sveglia che devi andare all'asilo. Ma scusa, ma almeno a Natale non potevi stare da tua zia la mattina di Natale, cioè. Ma non mi volevano tra i piedi. Ma no, dicono che disturbo perché gioco a YouTube con mio cuginetto Luca. Vabbè, però hanno ragione. Sì, se giocare a YouTube vista, vuol dire molestare il povero Luca, filmarlo, poi metterlo su internet, non va bene. Certo che non ma va dai, bene. Però che Natale orrendo, ma povero bambino albenga. Niente regali perché lo zio pieno di nei non si è ricordato. Poi il mattino dopo l'asilo da solo. Ma che triste, ma non è giusto. No, beh, ma la mattina di Natale non ero da solo all'asilo, No. No, c'erano anche dei figli del sottoproletariato. Ah, ma che parole difficili che usi, il sottoproletariato. Sì, c'erano Ahmed, Juanito, Yan Cheng, Boris, Vlad e Mbuntu. Chi? Mbuntu. Vabbè, il solito. No, non si capisce se è Mbuntu o Mbuntu. Mbuntu. Una squadra multietnica, vi sarete divertiti. Arcobaleno. Beh, non è che c'era molto da fare, ci siamo misurati il pisello. Ma come? Tutto il giorno? Vabbè, eravamo tutti maschi lì, cosa vuoi fare? Vabbè, giusto, dai. Ma come giusto? Ma non c'è di meglio da fare, dai. Tanto vince sempre, appunto, Mbuntu. Vincerebbe Mbuntu. Vincerebbe. Se io non avessi il righello truccato. Ah, vabbè, ma che soddisfazione c'è a vincere col righello truccato, dai. Ma come? Perché l'importante è vincere, è vero, bambino Bertolaso? Ma basta, non mi chiamo Bertolaso! Chiamo dai. Alberto! Ma sì, ma non capito? Vabbè, dai, me la canto? Sì, dai, cantala, sì, dai. Me la canto. No, dai, Drago, ma bella, no, di ma nuovo, canta ma bene. Non abbiamo tempo adesso. Ma sì che abbiamo tempo, dai, canta. Cantare, dai, bambino Berlinguer. A, L, B, E, R, T, O. A come autistico, L di lunatico, B di bambino come me. Rimbambito, ti come te e poi O come ho 30 A di ansiolitico, L di lisergico, B come bunga bunga, bingo bongo bamba, E come elementare, R son da rottamare, T come tre e poi O come orchidea. E ora bambini e tutti a casa. Vabbè, K, alla fine hai manifestato una sola buona intenzione per il 2011, che è quella di non interrompere il prossimo. A parte che sei tu che hai interrotto me. Ma quando? Adesso? Sei già tu subito? Che interrotto... cioè, poi, tu attacchi, abbiamo tutta la settimana per pensarci. Dai, poi finisce l'anno, i buoni propositi li buttiamo nel cassonetto insieme agli avanzi della festa del 31, quindi buonanotte. Chi se ne frega. Vabbè, comunque tu prima mi hai interrotto. No, sei tu che hai interrotto me. Ma se io sei tu che mi stavo ragionando e tu mi interrompevi. Ma stavo solo cercando di... Se tu mi interrompi, allora poi ti interrompo anch'io. La buona educazione vuole che quando io parlo tu non mi interrompi e quando io parlo tu non mi interrompi. Vabbè, possiamo salutare. Basta che non mi interrompi. Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Un programma di K e Drago. Torniamo domani e mandate i vostri buoni. Mi ha interrotto, A chiedo asilo tra radio24.it. Chiedo asilo.